Margaret aveva il timore di lasciar correre troppo la mente su questo progetto spagnolo. Tuttavia i suoi pensieri furono distolti dall'impazienza di indugiare sul desiderio che tutto fosse chiarito al signor Thornton. Per il momento il signor Bell pareva essere fisso a Oxford e non avere alcuna intenzione immediata di andare a Milton, e una sorta di segreto vincolo sembrava incombere su Margaret, trattenendola persino dal chiedere e dall'alludere di nuovo a una qualche possibilità di un simile viaggio da parte sua. Né si sentiva libera di menzionare ciò che le aveva detto Edith riguardo all'idea che aveva avuto, magari anche solo per 5 minuti, di andare in Spagna. Non ne aveva mai parlato a Helston durante quell'intera rilassante giornata di sole. Probabilmente non era altro che una fantasia passeggera, ma se fosse stata vera, che felice via d'uscita sarebbe stata dalla monotonia della sua vita attuale, che stava iniziando a diventarle insopportabile. Attualmente uno dei più grandi piaceri della vita di Margaret era il figlio di Edith. Era l'orgoglio e il giocattolo sia di suo padre che di sua madre, finché stava buono, ma aveva una forte volontà propria, e non appena scoppiava in uno dei suoi violenti attacchi di pianto, Edith ricadeva all'indietro disperata e stremata, e diceva sospirando: «Oh Dio, cosa devo fare con lui? Ti prego, Margaret, per favore, suona la campanella per chiamare Hanley». Tuttavia, a Margaret piaceva di più in queste manifestazioni di carattere che quando era buono o triste. Lo portava in un'altra stanza dove se la vedevano loro due da soli. Lei, con una fermezza che lo tranquillizzava, quando applicava fin di bene tutti gli incantesimi improvvisati e gli stratagemmi che aveva a disposizione, finché lui non sfregava tutto il suo caldo visino pieno di lacrime su quello di lei, baciandola e accarezzandola fino ad addormentarsi spesso tra le sue braccia o sulla sua spalla. Erano quelli i momenti più dolci per Margaret. Le davano sempre un assaggio di quel sentimento che credeva le sarebbe stato negato per sempre. Il signor Henry Lennox aggiungeva un elemento nuovo e gradito alla routine della vita domestica con la sua frequente presenza. Margaret lo considerava più distaccato, anche se più brillante che in passato. Oppure c'era un valido gusto intellettuale e una conoscenza ampia e varia a dare sapore a una conversazione altrimenti insipida. Margaret scorgeva in lui un barlume di leggero disprezzo per suo fratello e sua cognata e per il loro stile di vita, che a parer suo era frivolo e inutile. Una o due volte parlò con suo fratello in presenza di Margaret con un tono alquanto tagliente e inquisitorio, sulla sua intenzione o meno di rinunciare del tutto alla sua professione. E alla risposta del capitano Lennox, che aveva decisamente abbastanza di cui vivere, aveva visto le labbra del signor Lennox incresparsi mentre diceva: «E questo è tutto ciò per cui vivi?». Tuttavia, i fratelli erano molto affezionati l'uno all'altro, in quel modo in cui sono due persone sempre insieme, quando una è più intelligente e guida sempre l'altra, e quest'ultima è pazientemente paga di farsi guidare. Il signor Lennox stava facendo carriera nel suo lavoro, coltivando con calcoli attenti tutti quei contatti che avrebbero potuto alla fine tornargli utili. Era acuto, lungimirante, intelligente, sarcastico, orgoglioso. Da quella lunga conversazione riguardo alla faccenda di Frederick, che aveva avuto con lui la prima sera in presenza di Bell, non avevano avuto grandi rapporti, non oltre quelli che nascevano dalle loro strette relazioni all'interno della stessa famiglia. Tuttavia, questo bastò a cancellare la timidezza da parte di lei e tutti i sintomi di orgoglio e vanità feriti da parte di lui. Si incontravano di continuo, ovviamente, ma Margaret pensava che evitasse decisamente di restare da solo con lei. Si immaginò che il signor Lennox, come lei stessa, percepisse che stranamente non erano più un appoggio l'uno per l'altra come prima, fianco a fianco, non erano più in sintonia nelle loro opinioni e nei gusti. E allo stesso tempo, dopo che aveva parlato in modo insolitamente elegante, particolarmente lapidario, Margaret sentiva che i suoi occhi cercavano prima di tutto un suo cenno di approvazione, anche se solo per un istante, e che negli appuntamenti familiari che costantemente li riunivano, la sua opinione era sempre quella che lui ascoltava con rispetto, il più totale, perché veniva reso con riluttanza e celato il più possibile. 48 e nessuno più la troverà. Erano questi gli ingredienti delle cene organizzate dalla signora Lennox. Gli ospiti contribuivano alla bellezza, il capitano agli aggiornamenti sui fatti del giorno, il signor Henry Lennox e il gruppetto di uomini di successo che venivano ricevuti come suoi amici portavano l'arguzia, l'intelligenza, una conoscenza vasta e profonda che sapevano come sfruttare al meglio senza sembrare pedanti o appesantire il rapido andamento della conversazione. Simili conviti erano davvero piacevoli, tuttavia anche in questi frangenti Margaret veniva sorpresa dalla sua insoddisfazione. Ogni talento, ogni sensazione, ogni cosa che apprendeva, anzi, persino ogni buona intenzione finiva come materia di animati scontri verbali. Il fuoco sacro e nascosto si esauriva in scoppiettii e scintille, parlavano di arte in modo meramente superficiale, soffermandosi sugli effetti esteriori invece di concedersi di apprenderne gli insegnamenti. In compagnia si facevano prendere dall'entusiasmo per argomenti di alto spessore a cui non pensavano mai quando erano da soli. Le loro abilità nel fare apprezzamenti le sprecavano in un semplice flusso di parole appropriate. Un giorno, dopo che i signori furono saliti in salotto, il signor Lennox si avvicinò a Margaret, rivolgendole le sue prime parole spontanee da quando era tornata a vivere in Harley Street. «Non sembravate gradire i discorsi di Shirley a cena?» «Davvero? Oh, la mia faccia deve essere molto espressiva», rispose Margaret. «L'ho sempre stata. Possiede ancora il dono dell'eloquenza». «No, non mi è piaciuto», disse Margaret frettolosamente, il suo modo di sostenere ciò che sapeva essere sbagliato, così palesemente sbagliato, anche se scherzava. «Ma è stato abile. Quanto esprimeva ogni parola. Vi ricordate che begli aggettivi?» «Sì. E li disprezzo, vorreste aggiungere. Vi prego, non fatevi scrupoli, sebbene sia mio amico». «Ecco, quello è esattamente quel tono che avete che...» Si fermò subito. «Lui...» Rimase per un attimo in ascolto per vedere se avrebbe concluso la frase, ma lei si limitò ad arrossire e si allontanò. Prima di farlo, comunque, lo sentì dire con voce grave e chiara: «Se i miei toni o modi di pensare sono ciò che disprezzate, potreste farmi la cortesia di dirmelo e darmi così la possibilità di imparare a compiacervi?» Per tutte quelle settimane non ci fu alcuna notizia relativa a un viaggio a Milton del signor Bell. A Helston ne aveva parlato come di un viaggio che avrebbe potuto fare di lì a poco, tuttavia doveva aver condotto i suoi affari per lettera già a tempo prima, pensava Margaret, sapendo che evitava di andare in un posto che non gli piaceva se poteva farlo e soprattutto che non poteva capire la segreta importanza che lei riponeva in quella spiegazione che poteva essere data soltanto a parole e di persona. Sapeva che lui percepiva che la cosa andava fatta, ma se in estate, autunno o inverno aveva poca importanza. Adesso era agosto e il viaggio in Spagna accennato a Edith non era mai stato nominato e Margaret cercava di riconciliarsi con quell'illusione che lentamente andava scomparendo. Ma una mattina ricevette una lettera in cui Bell comunicava che la settimana successiva intendeva salire in città. Voleva vederla per parlare di un progetto che aveva in mente e soprattutto voleva fare una piccola visita da un dottore perché aveva iniziato a concordare con la sua opinione. Sarebbe stato più piacevole pensare che la sua salute fosse più sbagliata di lui quando si sentiva irascibile e di cattivo umore. C'era allo stesso tempo un tono di forzata allegria nella lettera, come Margaret notò in seguito, però in quell'istante la sua attenzione fu assorbita dalle esclamazioni di Edith. «Venire in città? Oh Dio, sono così distrutta dal caldo che non credo di avere le forze per un'altra cena. Inoltre sono partiti tutti tranne noi, che grazie al nostro caro stupido ego non siamo mai in grado di decidere dove andare. Non avremo nessuno da presentargli. Sono sicura che preferirebbe venire a cena alla nostra unica presenza che in compagnia di tutti i più graditi estranei che riusciresti a trovare. Inoltre, se non si sente in forma, non avrà alcun desiderio di ricevere inviti. Sono contenta che l'abbia ammesso alla fine. Ero certa che fosse malato, visto il tono generale delle lettere. Eppure, su questo punto, non mi ha mai risposto quando gliel'ho chiesto e non c'era nessun altro da cui potevo avere notizie. Oh, non sta tanto male, altrimenti non avrebbe pensato alla Spagna. Non ha mai nominato la Spagna. No, ma il progetto che deve proporre evidentemente riguarda quello. Ma davvero ci andresti con un caldo come questo? Oh, Sarà ogni giorno più fresco. Sì, pensaci, temo solo di aver pensato e desiderato troppo con quell'appassionata ostinazione che assicura di rimanere delusa o altrimenti appagata puntualmente, mentre l'anima non dà alcuna soddisfazione. Ma questa è superstizione? Ne sono certa, Margaret. No, non penso. È un modo per mettermi in guardia e per controllare che non dia sfogo ai miei desideri con una tale passione. È una sorta di dammi dei figli, se no io muoio. Temo che il mio grido sia fammi andare a Cadice, se no io muoio. Margaret, cara, ti convinceranno a rimanere lì e poi io cosa farò? Oh, magari trovassi qualcuno da farti sposare qui così potrei contare su di te. Non mi sposerò mai. Che idiozia! Che enorme idiozia! Perché, come dice Sciolto, sei una tale attrazione in questa casa che ha motivo di credere che un sacco di uomini saranno ben disposti a venire a farci visita il prossimo anno per corteggiarti? Margaret si raddrizzò con aria sprezzante. Sai, Edith, a volte penso che la tua vita a Corfù ti abbia insegnato, allora, a essere un tantino volgare. Edith si mise a piangere, così disperatamente, a dichiarare con tale veemenza che Margaret non l'amava più e non la riteneva più amica, che Margaret arrivò a pensare di aver espresso un'opinione troppo dura per alleviare il proprio orgoglio ferito e finì con il servire Edith per il resto della giornata, mentre quella piccola signora, sopraffatta dall'idea di essere stata offesa, giaceva distesa sul divano come una vittima, emettendo ogni tanto un profondo sospiro, fino a quando finalmente si addormentò. Il signor Bell non si fece vedere neanche il giorno in cui aveva rimandato per la seconda volta la sua visita. La mattina seguente arrivò una lettera da parte di Wallis, il suo domestico, che spiegava che il suo padrone da qualche tempo non stava affatto bene, il che era il vero motivo del suo ripetuto rimando, e che proprio quella volta che sarebbe dovuto partire per Londra era stato colto da un colpo apoplettico. L'opinione dei medici in realtà, aggiunse Wallis, era che non avrebbe superato la notte e quasi sicuramente quando la signorina Hale avrebbe ricevuto quella lettera, il suo povero padrone non ci sarebbe più stato. Margaret ricevette questa lettera a colazione e leggendola diventò molto pallida, poi dandola silenziosamente in mano a Edith lasciò la stanza. Leggendola, Edith rimase terribilmente sconvolta e si mise a piangere a dirotto, spaventata come una bambina con grande angoscia di suo marito. La signora Shaw stava facendo colazione in camera sua, lasciando a lui il compito di calmare sua moglie, che era stata portata a stretto contatto con la morte per la prima volta che riusciva a ricordare in tutta la sua vita. Era un uomo che avrebbe dovuto cenare con loro quel giorno e che invece giaceva morto o stava morendo. Passò del tempo prima che fosse in grado di pensare a Margaret, quindi si ridestò e raggiunse la cugina di sopra, nella sua camera. Dixon stava mettendo in valigia alcuni oggetti da toilette e Margaret stava indossando in tutta fretta il suo cappellino, versando lacrime per tutto il tempo e le sue mani tremavano così tanto che non riusciva ad allacciarselo. Oh, Margaret, cara, è così sconvolgente! Ma cosa stai facendo? Stai uscendo? Sciolto può telegrafare o fare qualsiasi cosa desideri. Sto andando a Oxford, c'è un treno tra mezz'ora. Dixon si è offerta di venire con me, ma ci sarei potuta andare da sola. Devo rivederlo. Inoltre, potrebbe stare meglio avere bisogno di cure. È stato come un padre per me. Non fermarmi, Edith. Ma devo! Alla mamma non piacerà affatto. Vieni a proporglielo, Margaret, non sai in che posto stai andando. Non mi importerebbe se avesse una casa sua, ma tra le stanze dei suoi colleghi professori. Vieni dalla mamma e chiediglielo prima di andare, non ci vorrà che un minuto. Margaret cedette e perse il treno. Di fronte alla subitaneità di quella partenza, la signora Shaw diventò confusa e isterica, e così il prezioso tempo passò. Tuttavia, c'era un altro treno un paio d'ore dopo, e alla fine di svariate discussioni su convenienza e sconvenienza, fu deciso che il capitano Lennox avrebbe accompagnato Margaret, dal momento che l'unica cosa in cui era rimasta costante era la sua determinazione ad andare, da sola o accompagnata, con il treno successivo, a qualsiasi cosa potesse essere detta sulla convenienza o sconvenienza in quel momento. L'amico di suo padre, il suo amico, giaceva in punto di morte e questo pensiero le venne in mente con un'intensità tale che si sorprese di se stessa per la fermezza con cui in qualche modo rivendicava il suo diritto di libertà di azione. e 5 minuti prima dell'orario di partenza si ritrovò seduta nella carrozza di un treno di fronte al capitano Lennox. Fu sempre un grande conforto per lei pensare di esserci andata, anche se fu solo per sentire che era morto durante la notte. Vide le sue stanze e in seguito le associò con profondo affetto al pensiero di suo padre e del suo amico, del suo unico, stimato e fedele amico. Prima di partire, avevano promesso a Edith che se tutto fosse andato a finire come temevano, sarebbero ritornati per cena. Così quella lunga occhiata, piena di intensa nostalgia, alla stanza in cui era morto suo padre, dovette essere interrotta, e fu dato con serenità l'ultimo saluto a quel viso vecchio e buono, che così tante volte se n'era uscito con parole simpatiche e spiritose e stravaganti battute. Il capitano Lennox si addormentò durante il viaggio di ritorno e Margaret poté essere libera di piangere e di pensare a quel fatale anno e a tutti i dolori che le aveva portato. Non appena si rendeva completamente conto di una perdita, ne arrivava un'altra, non per sostituire il dolore della precedente, ma per aprire ancora di più ferite e sentimenti che non erano guariti. Tuttavia, al suono delle tenere voci di sua zia e di Edith, e dell'allegra esultanza del piccolo sciolto al suo arrivo e alla vista delle stanze ben illuminate, con la loro padroncina graziosa nel suo pallore e nella sua eccitata partecipazione al dolore, Margaret si ridestò dal suo stato ipnotico di disperazione, quasi superstiziosa, e iniziò a percepire che anche intorno a lei forse potevano raccogliersi contentezza e gioia. Si era seduta nel posto di Edith sul divano. Insegnarono sciolto a portare a zia Margaret la sua tazza di tè, facendo molta attenzione. E quando salì per vestirsi, riuscì a ringraziare per aver risparmiato al suo caro vecchio amico una lunga e dolorosa malattia. Ma quando sopraggiunse la notte, una solenne notte, e il silenzio regnava in tutta la casa, Margaret sedeva immobile ad ammirare la bellezza del cielo di Londra a quell'ora, in quella giornata estiva. Il debole riflesso rosato delle luci terrene sulle nuvole soffici che galleggiavano tranquille verso la bianca luna, fuori dalla calda oscurità che giaceva immobile intorno all'orizzonte. La stanza di Margaret era stata la cameretta della sua infanzia, proprio quando questa svaniva nell'adolescenza e quando i suoi sensi e la sua coscienza si erano destati, diventando vigili e attivi. In notti come questa ricordava di essersi ripromessa che la sua vita sarebbe stata coraggiosa e nobile come quella di qualche eroina da romanzo di cui aveva letto o di cui aveva sentito parlare, una vita sans peur et sans reproche, senza paura e senza rimpianto. Quella volta le era sembrato che doveva solo volerla e una simile vita si sarebbe realizzata, e ora aveva imparato che non solo la volontà, ma anche la fede erano due condizioni necessarie per essere veramente eroici. Fidandosi di se stessa, era caduta. Era una giusta conseguenza del suo peccato che tutte le scusanti, tutti i motivi della tentazione dovessero rimanere per sempre sconosciuti alla persona che aveva completamente perso la stima per lei. Alla fine restò faccia a faccia col suo peccato. Lo riconobbe per quello che era, il fine ragionamento sofistico del signor Bell, secondo il quale quasi tutti gli uomini erano colpevoli di azioni ambigue, e secondo cui la causa nobilitava il male, non aveva mai avuto una gran presa su di lei. Inizialmente pensò alla possibilità che aveva avuto di dire senza remore la verità se avesse saputo tutto, ma si rivelò un pensiero debole e inefficace. Anzi, persino in quel momento, la preoccupazione che la sua indole sincera fosse parzialmente giustificata agli occhi del signor Thornton, come il signor Bell aveva promesso di fare, era una consolazione misera e insignificante. Adesso che la morte le aveva ancora una volta insegnato come la vita doveva essere, anche se tutti parlavano, agivano o stavano zitti con l'intenzione di ingannare, se erano in gioco gli interessi più cari e in pericolo le vite delle persone più care, anche se nessuno avrebbe mai saputo della sua onestà o falsità, per dosare in tal modo il proprio rispetto e la propria stima nei suoi confronti, lì, su 2 piedi, da sola, alla presenza di Dio, pregò di poter avere la forza di parlare e agire per sempre nella verità. 49. Ma è Margaret l'erede? Sussurrò Edith a suo marito quando furono da soli nella loro stanza la sera dopo il triste viaggio a Oxford. Prima di avventurarsi a fare la domanda, si era sollevata in punta di piedi e, cingendogli il collo, gli aveva fatto chinare la testa, supplicandolo di non scandalizzarsi. Tuttavia, il capitano Lennox ne era all'oscuro. Se mai ne avesse sentito parlare, l'aveva ormai dimenticato. Non poteva essere granché quello che aveva da lasciare un professore di una piccola università. Tuttavia, non aveva mai voluto che lei si pagasse il vitto, e 250 sterline all'anno erano una somma assurda considerando che non beveva vino. Edith riappoggiò i piedi a terra, un po' più mesta, con una storia romantica fatta a pezzi. Una settimana dopo andò verso il marito pavoneggiandosi e gli fece un profondo inchino. Io ho ragione e voi avete torto, nobilissimo capitano. Margaret ha ricevuto la lettera di un avvocato ed è l'erede universale e i lasciti ammontano a circa 2.000 sterline e il resto a circa 40.000, secondo l'attuale valore della proprietà a Milton. Davvero? E cosa pensa lei della sua bella fortuna? Oh, pare sapesse fin dall'inizio che l'avrebbe ereditata, solo che non aveva idea che fosse così cospicua. Sembra molto pallida e debole, dice che ha paura, ma sono sciocchezze, sapete, passeranno subito. Ho lasciato la mamma sommergerla di congratulazioni e sono scappata via per dirvelo. Pareva doveroso, per consenso generale, che la cosa più naturale fosse quella di considerare, da quel momento in poi, il signor Lennox come il suo consigliere legale. Ne sapeva così poco lei di qualsiasi tipo di affare che aveva bisogno di rivolgersi a lui quasi in ogni questione. Scelse per lei un amministratore, le portava documenti da firmare. Mai era stato così felice come quando le insegnava tutte quelle incomprensibili formule legali. Harry, disse Edith un giorno con una certa malizia, sapete in cosa spero e mi aspetto che finiscano tutte queste lunghe chiacchierate con Margaret? No. Non lo so, rispose lui arrossendo, e desidero che voi non me lo diciate. Oh, molto bene, allora non occorre che dica sciolto di non invitare così spesso qui il signor Montague. Come vi pare, disse con forzato distacco, ciò a cui state pensando può accadere oppure no, ma questa volta, prima di espormi, voglio vedere dove metto i piedi. Invitate chi vi pare. Magari non è molto educato, Edith, ma se vi metterete di mezzo, rovinerete tutto. Per tanto tempo è stata scontrosa con me e ha appena iniziato a sciogliere un po' quei suoi modi da Zenobia. Ha un'indole degna di Cleopatra, se solo fosse un tantino più pagana. Per quanto mi riguarda, disse Edith con un che di malizia, sono molto contenta che sia una cristiana, ne conosco così pochi. Non ci fu la Spagna per Margaret quell'autunno, anche se fino all'ultimo sperò che qualche fortunata circostanza avrebbe portato Frederick a Parigi, dove avrebbe potuto facilmente raggiungerlo con un convoglio. Al posto di Cadice dovette accontentarsi di Cromer. La zia e i Lennox erano legati a quel posto. Sin dall'inizio avevano preteso la sua compagnia e di conseguenza, assecondando il proprio carattere, non fecero che pigri sforzi per incoraggiare il suo diverso desiderio. Forse Cromer, in un certo senso, fu la cosa migliore per lei. Aveva bisogno di rafforzare e rinvigorire il corpo di riposo.